later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli l'esperimento biologico sta per avere termine, Cappa e Drago fanno gli schizzinosi. Sì, però a me questo mangime biologico non è che piaccia molto. Non so, però sai, sono i cereali esattamente come quelli che mangiano le ragazze che vogliono dimagrire. Le ragazze o le galline? Vabbè, dai, che differenza c'è ormai. Oggi è il grande giorno, Drago. Macellano i polli allevati biologicamente e confrontano le loro carni con quelle dei polli rimasti nel lager. Vabbè, ma il confronto sarà impietoso. Pensa che differenza tra il lager e questo piccolo paradiso. Sì, ma non è detto che mangiando queste schifezze le carni diventino chissà che. Quindi... Non sono schifezze, K, propriamente. Dai, è il miglior mangime per polli possibile. E ringrazio che non ci hanno ancora servito i lombrichi biologici. Il pollo biologico non tira, la gente non ha soldi da spendere, Drago. Adesso vanno forti i polli scadenti del discount, esattamente il tipo di pollo che produce storicamente questa fabbrica. Qui dentro non ce la faranno mai a fare lo scatto per diventare un'azienda modello, lascia stare. Ma invece, K, c'è tutta una fascia di consumatori abbastanza danarosi che il pollo biologico lo compra, e anche le uova. Non disperare, vedrai che l'amministratore delegato dimostrerà buon senso. Ora l'etologo studia il loro sguardo perso, il veterinario cura il loro umore inverso. Erano uomini alti e pure belli, si ritrovarono per sempre ad essere polli. Così va il mondo così va. Chi va col pollo impara a razzolare. Scherza coi polli, ma lascia stare i polli. And so we stay together. It's to you, Cappa e Drago. It's to you, Drago e Cappa. It's to you, Cappa e Drago. It's to you. Fabbrica di polli. Allora, tutti i condannati si mettono da bravi e fila. E su, cosa sono quelle facce? Avete fatto la bella vita fino adesso? Di cosa vi lamentate? Provate a pensare ai vostri colleghi del lager, che hanno fatto la solita vita di cacca e oggi li macellano tanto quanto voi. Non potete essere troppo tristi, no? Avete avuto quello che nessun pollo ha mai avuto in questa fabbrica. Bagno turco, massaggi, aromaterapia, musicoterapia, cromoterapia, chemioterapia, per chi ne aveva bisogno, no? Insomma. E poi casino, roulette, rien ne va plus, moulin rouge, un bellini dietro l'altro. Cosa? Cosa dite? Che il bellini non era fatto con lo champagne? Vabbè, ho capito, era tutto gratis e cosa pretendevate? Polastri. È incredibile come si abituino presto alla bella vita questi straccioni. Vabbè, ma non è per quello che sono tristi, Pollo, è perché vanno al macello. Sì, ma devono essere fieri, eh? È perché sono i pionieri dell'allevamento biologico. Vabbè, sì. E se tutto va bene, grazie a loro, tutti gli altri polli potranno vivere bene in futuro. Brevemente, ma bene. Però è vero che il Bellini senza champagne... Io sono un rappresentante sindacale, mica un barman. Perciò lamentatevi con qualcun altro. Il livello di eccellenza di un luogo di relax si evince generalmente dai cocktail. Quindi anche tu, Polo, dovresti saperlo. Se il cocktail è fatto a regola d'arte, allora puoi star certo che anche il resto sarà all'altezza. Se il Bellini è fatto col prosecco di Valdobbiadene invece che con lo champagne, Poi, forse qui c'è un equivoco, eh. questa non è mica una beauty farm. Poi, è sempre una fabbrica di polli. Allora, è tutto pronto. Recitate le ultime preghiere e siate orgogliosi. Grazie a voi, un futuro radioso si profila per tutti i vostri simili. Vi ringraziamo per la collaborazione e vi diamo appuntamento all'aldilà. Tanto prima o poi ci si rincontra tutti. Che gli addetti alla macellazione comincino! Chicken Z. Crap. Qui, la stazione del Radio Turkmenistan. Politica estera. 600 Repubblica del Turkmenistan occidentale, per voce del suo leader ex galeotto Mullah Pregahari, continua di dire che mucchi di pietra sul confine orientale del suo paese appartengono alla sua Repubblica. Generale Sparahari ha ritirato personale diplomatico e ha dato ultimatum a Mullah Pregahari di togliere bandiera da mucchi di pietra entro domani, altrimenti succede guerra santa bruttissima che poi mandano truppe ONU a rovinare tutto. E nessuno qui vuole caschi blu a mettere naso in nostri affari, nemmeno nella sedicente Repubblica del Turkmenistan occidentale. Soluzione proposta di Mullah è fare grande partita di ramino con mucchi di pietra come posta in gioco. Ma generale Sparahari insiste per partita di briscola, che è più facile da capire anche per militare ignorante come lui. Gli aggiornamento a breve. Vedi, Drago, anche sì. Le uova biologiche sono pronte per essere mandate al mercato. Speriamo bene. E le galline ovaiole sembrano anche soddisfatte, guardale. Vedo. D'altra parte loro sono sempre privilegiate, dai, mangiano, dormono, fanno uova tutto il santo giorno. Sì. Anche loro finiscono in forno, quando sono ormai anziane, oppure in pentola. Ma se non finissero in forno morirebbero di vecchiaia, sai che differenza c'è? Però scusa, K, quanto ci vorrà per riconvertire il lager in un'azienda biologica? Cioè, mi sembra un'impresa ciclopica, è un po' come fare le riforme in Italia. Se ne parla da 15 anni, ma già solo parlandone si capisce che non si faranno mai. Eh già, ma sarà dura anche perché bisognerà riconvertire tutto il personale, perché sì. Qui sono abituati a fare i secondini, o meglio i capò, e invece dovranno trasformarsi in i servienti affabili, gentili, educati, gentili, certo. La vedo dura. Te lo vedi Gaston, il capo dei mercenari belgi, che improvvisamente diventa una specie di maggiordomo? No, ma non funziona. Poi così a catena, dal primo all'ultimo. Questi aguzzini senza cuore sarebbero chiamati a cambiare radicalmente, non può funzionare. Mi viene da ridere, ma sai cosa succederà? Succederà quel che succede sempre dopo le rivoluzioni. Sembrerà tutto diverso per rimanere tutto uguale. E dopo la caduta del nazismo e la fondazione della Repubblica Federale Tedesca, i burocrati sono rimasti gli stessi, c'erano i tempi di Hitler, sai. E dopo la fine del comunismo, i funzionari sovietici hanno cambiato uniforme e sono diventati funzionari russi. Prendi Putin, da giovane spezzava pollice e sparava alla schiena con la divisa del KGB, e adesso è lì che stringe mani e fa discorsi in giacca e cravatta, ma è sempre lui, eh. It is later than you think. Cosa succederà adesso? Quali esiti darà l'analisi delle carni e delle uova biologiche? E che fine hanno fatto Tarek e Joao? Sono già pronti per finire dentro un banco frigo con l'etichetta prestigiosa di cibo biologico? Lo scoprirete solo sintonizzandovi lunedì a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo impensabile allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude. Fabbrica di Polli, un programma di K e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen con Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Paolo Corsi, Giovanni Della Morte, Luca Gemma, Luca Micheli. La Fabbrica di Polli è trai.it, barlumen.com.